Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Anche oggi i dati invitano all'ottimismo. Quindi partiamo da qui, perché le buone notizie sono carburante che ci aiuta ad andare avanti, a rispettare ancora più motivati le misure di comportamento. Quindi restiamo a casa, la consapevolezza che i nostri sforzi stanno iniziando a risultati. Questo naturalmente ci rincuora e ci invita a non mollare, sentirci parte di una squadra, come a dire avanti, siamo forti e ce la possiamo fare. Proprio ieri il presidente dell'Istituto Superiore di Abruzzaferro ha detto che siamo arrivati al picco, che in realtà è un piano da cui dovrebbe iniziare la discesa, e naturalmente quel spiraglio di luce che si vede in fondo al tunnel invita a pensare al domani, alla ripresa. Ma tutto questo naturalmente va pensato e dato, ci vorrà ancora tempo, occorrerà rispettare i tempi, perché non possiamo permetterci di fare errori o leggerezze, perché non nulla per compromettere risultati ottenuti con grande impegno che in queste ultime settimane. Quindi credo che il messaggio resti quello: a casa, perché questo è il contributo che possiamo dare a chi è deputato a organizzare la ripresa con tutto quello che questo comporta. 392-38-6666, questo è il nostro numero per rimanere in contatto. Messaggi WhatsApp vocali, c'è Peter Bescapè in regia, a parte tecnica, Anita Panizza in assistenza, Laura Vanoss in redazione, le ringrazio i colleghi in apertura di programma. Saluto il professor Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerca Mario Negri, è in linea con noi. Professor Remuzzi, che bello sentirla. Buongiorno, buongiorno, grazie anche professore, per me. Anche la ripresa, il ritorno alla quotidianità è, proprio come la gestione dell'emergenza, una grande sfida. È d'accordo? Sì, certo. Adesso il problema più importante, che anche secondo me è un problema di comunicazione, in quanto abbiamo avuto una comunicazione molto chiara su certi momenti fondamentali dei nostri comportamenti, da tenere le distanze, non darsi la mano, non toccare gli occhi quando hai toccato oggetti che hanno toccato altri che potrebbero avere contaminato una determinata superficie, lavarsi le mani spessissimo, mettere le mascherine. Questo è chiaro, l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito, l'abbiamo ripetuto. Quello che secondo me è rimasto un pochino nell'ombra è: cosa fa uno che pensa di essere guarito, o che è effettivamente guarito, o che ha avuto il virus, è stato in quarantena e dovrebbe in teoria poter cominciare a fare una vita normale, quando esce di casa, e i suoi familiari cosa fanno? A questo io non credo che sia stata data attenzione con una comunicazione altrettanto, non dico ossessiva, ma dovrebbe essere ossessiva, perché in queste cose bisogna essere certi che questo tipo di comunicazione raggiunga tutti. Professore, infatti molte domande dei nostri ascoltatori arrivano e proprio sono orientate a ricevere delle informazioni. Ho avuto i sintomi del Covid, ho ricevuto una diagnosi telefonica, adesso che non ho più sintomi, che cosa faccio? Come posso capire quando potrò definirmi guarito? Allora, si può fare una cosa di buon senso oppure una cosa scientifica, o che abbia delle basi scientifiche. La cosa di buon senso dipende dalle conoscenze che abbiamo sul fatto che, nonostante ci siano pochi studi, quello che emerge è che il periodo per cui uno continua, durante il quale uno continua a poter trasmettere l'infezione pur non avendo sintomi, varia in rapporto alla gravità dell'infezione che ha avuto. Quindi un paziente che ha avuto un'infezione grave, che ha avuto bisogno di ricovero in ospedale, o comunque che ha avuto bisogno di ossigeno a casa, che non respirava, che è stato in grande difficoltà per un certo periodo, ancora per 20 giorni è capace di infettare altre persone, in teoria. Pensate che ci sono delle persone che diffondono il virus ancora a 37 giorni dall'assenza dei sintomi. Questo lo sappiamo dai numeri che vengono dalla Cina, che non sono sempre impeccabili, però pare che questo sia così. Se un paziente invece ha avuto un'infezione lieve, un pochino di febbre, un po' di tosse, nient'altro di più importante, la durata media è di 10 giorni, ma per qualcuno può continuare per 15 giorni. Quindi qui, se usiamo una regola di buon senso, diciamo che dopo 14 giorni dall'assenza di sintomi, uno in teoria non dovrebbe poter contagiare altri se riprende le sue attività lavorative e la sua attività sociale. Professor Alessandro, c'è qualcosa di più che si può fare? Sì. Ah, bene. Si può fare un tampone e allora hai la certezza di essere negativo dopo essere stato positivo, ma il tampone ha una serie di limitazioni per cui è bene farne due, oppure si possono andare a cercare gli anticorpi che presumibilmente chi ha avuto l'infezione ha sviluppato nei confronti del virus, e questo proteggono lui e gli altri che incontrerà. A proposito di anticorpi, parliamo tra poco dei test sierologici che, misurando nel sangue proprio la presenza di anticorpi, potrebbero essere utilizzati per individuare chi è guarito, chi ha sviluppato un'immunità e che quindi potrebbe riprendere una vita normale in sicurezza per sé e per gli altri. Ma professor Remuzzi, ne approfitto per rispondere anche al nostro ascoltatore Alessandro, che ci scrive: se bevo e mangio dove ha mangiato e bevuto un positivo Covid-19, senza che le stoviglie siano state sterilizzate, ci scrive dalla lavastoviglie, può bastare, posso essere contagiato tramite la saliva? Sì, certo, bere e mangiare dove ha mangiato un altro è proprio una pessima idea. Se ha mangiato un'altra persona che ha evidenza di aver contratto la malattia o essere positiva al virus. Dal momento che in questo periodo la cosa migliore è che noi ci comportiamo come se tutti quelli che qui incontriamo potessero trasmetterci l'infezione, questa è una cosa da non fare. Tra l'altro, tenete conto che queste semplici regole, se uno le applicasse davvero bene, l'idea che incontri uno e lo consideri come una persona che potrebbe infettarti o che tu potresti infettare, quindi tienilo un metro e qualcosa di distanza, tieni la mascherina, certo, non dargli la mano, non toccarti gli occhi dopo aver messo le mani dove ha messo le mani lui, saresti a posto. Naturalmente non si mangia e si beve dove mangia un altro, certo, ma questo normalmente non si dovrebbe fare neanche. No, neanche non. Sì, brava, la lavastoviglie è sufficiente per lavare in modo accurato. Professor Remuzzi, parliamo dei test sierologici. Prima di sapere un po' la sua opinione, ci aiuta a capire bene cosa sono, come funzionano, che caratteristiche hanno, quando servono, a chi sono indicati? Allora, noi abbiamo delle conoscenze che ci dicono che dopo che passano i sintomi, la carica virale, cioè la quantità di virus che si trova nella saliva o nell'aspirato endotracheale, se uno mette una piccola sonda e aspira quello che si trova nella trachea e nella parte superiore delle vie aeree, diminuiscono progressivamente col tempo che passa dal passaggio dei sintomi, fino ad arrivare ad essere praticamente impossibili da rilevare a 30 giorni. Però, come vi ho detto, c'è una grande variabilità. In qualcuno questa emissione di questa carica virale è già molto bassa a 20 giorni, in qualcuno a 10 giorni. Gli anticorpi, dopo che uno è stato esposto al virus, incominciano a salire e ci sono due tipi di anticorpi. Ci sono anticorpi che si chiamano IgM, vuol dire immunoglobuline di tipo M, che incominciano a salire un po' più tardi dall'inizio dei sintomi, intorno ai 5-10 giorni, e questi rimangono nel sangue fino almeno a 20 giorni, ma probabilmente anche di più. Ci sono delle anticorpi invece che si chiamano IgG, che cominciano a salire nel sangue ancora più tardi, mentre le IgM incominciano a salire dopo un paio di giorni dall'inizio dei sintomi. Le IgM cominciano a salire nel sangue, quindi questi anticorpi si formano, specialmente nei casi severi, dopo 10 giorni e raggiungono a 20 giorni un livello molto alto, per poi rimanere nei casi lievi o qualche volta tendere a diminuire. Sono anticorpi contro certe parti del virus, soprattutto contro quelli che si chiamano spike, quei pungiglioni che sembra un po' il riccio di mare questo virus, e gli anticorpi sono contro quei pungiglioni lì, quelli che di solito misuriamo, ma possono esserci anticorpi anche contro altre proteine virali. Questi test non distinguono tra un tipo e l'altro degli anticorpi, soprattutto i test rapidi che si fanno. Allora, uno ha la febbre giorno 0, giorno 7 comincia ad avere una crescita di anticorpi IgM, quelli più precoci. Il giorno 7 c'è 0 di anticorpi anti-IgG, cominciano a salire il giorno 14 e sono alti e molto ben misurabili il giorno 20. Quello che noi sappiamo è che se prendiamo una scimmia, la facciamo ammalare, la immunizziamo poi con questi anticorpi, poi risottoponiamo questa scimmia a SARS-CoV-2, che è il nome del virus che provoca la malattia COVID-2. Il COVID. Questa scimmia non si ammala più. E questo ci suggerisce che probabilmente questi anticorpi erano protettivi. E non solo, ma questa scimmia, se noi misuriamo la carica virale, che aumenta quando noi facciamo ammalare la scimmia col virus, se poi misuriamo la carica virale dopo che la scimmia è stata riesposta al virus un'altra volta, non ce n'è più. Quindi l'anticorpo neutralizza il virus. Questa è una bella notizia, perché vuol dire che gli anticorpi che noi formiamo e che sono, assomigliano a quelli che diamo a queste scimmie, probabilmente ci proteggono. Non sappiamo, professore, per quanto a lungo ci proteggeranno. Per quanto? Professore, no. C'è un'altra bella notizia, io ho letto delle sue interviste, sembra che siamo vicini alla cura, ho notato un certo ottimismo nelle sue dichiarazioni, siamo vicini alla cura per la polmonite del Covid-19. Io mi fermo, la tengo con me, andiamo alle informazioni sul traffico e siamo ancora insieme, a tra poco. Obiettivo salute. A Obiettivo salute oggi per noi e con noi il professor Giuseppe Remuzzi. Professor Remuzzi, ci sono altre buone notizie riguardo alla cura? Ma in generale il problema è come curare questa polmonite. Man mano che l'abbiamo conosciuta abbiamo imparato a curarla. Intanto abbiamo imparato che questa non è una polmonite come le altre che eravamo abituati a vedere, che si chiamano polmonite atipiche, sono polmoniti degli immunodepressi. Sono immunodepressi perché hanno l'AIDS, per esempio, o hanno avuto un trapianto, hanno fatto i farmaci che deprimono il sistema immune, o hanno fatto un trapianto di midollo e hanno fatto tantissimi farmaci per evitare che il midollo aggredisca il sistema immune dell'ospite. Ci sono un sacco di condizioni in cui si sviluppano polmoniti interstiziali e queste polmoniti le sappiamo curare abbastanza bene, le conosciamo da anni. Questa polmonite ci siamo accorti da subito, e questo è interessante perché è una cosa nuova, non è solo il virus nuovo, noi abbiamo sentito sempre parlare il virus è nuovo, ma è vero, ma sono nuove anche i danni che fa questo virus, per cui i medici hanno fatto fatica all'inizio a capire che non si trattava di una polmonite interstiziale normale, di quelle che funzionano con aumentando la quantità di ossigeno che tu fai arrivare nel polmone con questi sistemi di ventilazione. Lì c'è qualcosa d'altro. E quel qualcosa d'altro incomincia ad essere più chiaro. Ci sono dei problemi vascolari, quindi questo virus si attacca non solo agli alveoli polmonari, ma si attacca da tante altre parti, si attacca probabilmente all'endotelio vascolare, si attacca a certe strutture renali, si attacca forse anche al cervello o ai nervi periferici. Questa è la ragione della mancanza di olfatto e di gusto che le persone percepiscono. Di cui abbiamo parlato ieri, sì. Qualche volta come unico sintomo del virus o quando stanno per guarire o qualcuno persino nelle fasi precoci. Ecco, tutte queste conoscenze ci stanno aiutando a capire che questa polmonite non si cura come tutte le altre. E abbiamo adesso delle strade che stiamo per percorrere, e io penso ci potranno dare grandi soddisfazioni in termini di terapia, perché nelle malattie, quando si capisce, poi la cura si trova. E la mia idea è: la cura non sarà una cura miracolosa, una cura che viene chissà da dove, una cura fatta apposta per questo virus. Per carità, speriamo di trovare l'antivirale giusto, e forse Remdesivir, questo che funzionava nelle scimmie, che è stato provato in Cina è la strada giusta, non quello per l'AIDS, perché l'abbiamo provato ma non funziona, probabilmente nemmeno quello giapponese, che ha suscitato grande entusiasmo, ma quelli stessi che l'hanno messo a punto adesso hanno dei dubbi sul fatto che funzioni. Ce n'è uno invece più specifico che è stato provato per Ebola. In Ebola non funziona, ma funziona con la SARS, quella degli inizi degli anni 2000, e la febbre medio orientale, che sono molto simili, quindi sono il coronavirus assomiglia del COVID-2, moltissimo, vero, assolutamente, esatto. Quindi, professore, e lì funzionava. Sì, lei ci sta dicendo che siamo vicini a questa cura e probabilmente siamo molto utilizzeremo a trovare dei farmaci che sono già. È giusto. E la terapia si curerà a seconda di quello che stiamo per capire sia la causa del danno, con dei farmaci che potrebbero essere anche molto semplici e molto disponibili. Ci vuole tanta ricerca perché il segreto non è solo quello che abbiamo bisogno di respiratori, abbiamo bisogno di tamponi, abbiamo bisogno, ma la cosa di cui abbiamo bisogno di più sono due. La prima è la ricerca, per capire con che cosa abbiamo a che fare, sennò i respiratori aumentano all'infinito e non ce la facciamo più. E la seconda è, dobbiamo capire che il mondo è globalizzato e allora non si possono avere paesi vicini a noi, perché ormai sono tanto vicini da portarci qua il virus, che sono avanzatissimi sul piano industriale, sul piano tecnologico e assolutamente primitivi e medievali sul piano dell'attenzione ai mercati del cibo. Questo è una cosa che non dice nessuno, ecco, ma dobbiamo cominciare a dirla, perché le epidemie nascono da lì, non nascono non è colpa di nessuno, è colpa di poca attenzione all'igiene in mercati, in ambienti dove si mescolano animali tra loro che poi trasmettono questi virus all'uomo. All'uomo. Professor Remuzzi, io la ringrazio per essere stato con noi, torni presto a trovarci. Buona giornata. Sì, grazie, arrivederla. Grazie. E nello spazio dedicato al nostro benessere emotivo, ogni giorno cerchiamo di ricevere dai nostri esperti dei consigli per restare in equilibrio, ritrovarlo, interpretare e dare voce alle nostre emozioni. Oggi ci aiuta Maria Giovanna Luini, che è in linea con noi. Ciao Maria Giovanna. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Autrice della Via della Cura, 23 passi per superare le prove della vita e ritrovare l'equilibrio. Oggi noi lavoriamo sulle parole, ci sono delle parole che curano. Sì, noi stiamo assistendo a un tuono comunicativo che in parte ci fa bene, in parte sta veramente mettendo alla prova non solo i nervi e l'emotività, ma anche il sistema immunitario. E allora, siccome le parole sono vibrazioni, sono contenuti, sono toni di voce che arrivano a noi prima che agli altri, perché non riflettere un po' sulle parole, giocarci, usarle per rinforzare la nostra immunità, ma anche la nostra voglia di costruire il presente e il futuro. Le parole sono cura, lo sono state anche in molti approcci nei secoli, le parole, la loro vibrazione. Ci sono state culture, ci sono tuttora culture che usano le parole non solo per portare empatia, ma anche per portare la cura. Ed è la stessa cosa che fai tu, Nicoletta, tutti i giorni, le parole portano la cura. Quindi da oggi o da domani, non ricordo se sia da oggi o da domani, abbiamo questi video insieme per Obiettivo Salute che ci porteranno a giocare, a riflettere, a essere leggeri, ma anche a usare le parole per stare meglio oggi in questa situazione, pensando a domani. Una parola al giorno. Sì, una parola, Giovanna, al giorno. Una, certo, parola al giorno che sia un balsamo per il nostro cuore. Ah, sì, una parola al giorno che sia davvero carica di energia, perché noi possiamo usare le parole caricandole di energia, facendo sì che agiscano, che non vuol dire necessariamente pensare positivo, vuol dire diventare consapevoli che la parola è un veicolo. È un veicolo anche per noi stessi, le parole che usiamo per noi. Allora, lasciano una parola dei segni al giorno. Come? Dai, una parola, lasciano sì, dei segni le parole, certo, anche quelle segni che non pronunciamo e che teniamo dentro di noi. Allora, con la cura delle parole vi aspettiamo naturalmente sulla pagina di Obiettivo Salute con i video di Maria Giovanna Luini. Una parola, Maria Giovanna Luini, grazie. Grazie, grazie, grazie. Ecco. Saluto e ringrazio anche il nostro dottor Erzegovesi, che ieri è mancato all'appello, ma ci ha lasciato comunque la sua ricetta. Dottor Erzegovesi, le tiro solamente un orecchio, non tutte e due. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, hai all'orecchio, ma ci sono. Eccola, pronta per una... Abbiamo parlato di parole, del potere delle, delle parole, parliamo anche del potere dei colori sulla nostra tavola. Dottor Erzegovesi. Dei colori, oggi il colore che mi piace di più, che è il blu-violetto, quindi il potere delle barbabietole, il potere dei mirtilli, il potere delle cipolle viola di Tropea, delle bucce delle melanzane e di tantissime altre. Cos'è la cosa importantissima delle antocianine, che sono le sostanze chimiche che danno questo, che donano questo colore ai vegetali? È che non solo hanno un effetto sicuramente antiossidante, antinfiammatorio e quindi amico del nostro sistema immunitario di questo, in questo periodo molto bisognoso, ma studi scientifici recenti collegano le antocianine a un effetto specifico sull'espressione genica. Cosa vuol dire? Che le antocianine, quindi tutti questi coloranti naturali, tendono a livello proprio di espressione del DNA a modificare il funzionamento dei nostri geni in una direzione che è non solo antinfiammatoria e antiossidante, ma anche promotrice della longevità, e quindi in qualche modo facciamocene carico e riempiamo la nostra dispensa di colore blu-violetto. Dottore Erzegovesi, ricordiamo che le ricette del nostro medicuoco quasi cuoco sono sulla pagina di Obiettivo Salute, quindi andrò subito a vederla e mi metterò al lavoro. Dottore Erzegovesi, grazie anche a lei per essere sempre con noi. Ma grazie, una buona a voi giornata. Alla prossima. Oltre alle ricette del nostro medicuoco quasi cuoco, sono tanti anche gli spunti che potete trovare sulla pagina Facebook del nostro programma. Le fotografie di Luigi Sutera oggi ci porta in piazza San Pietro, ma ci sono gli esercizi di meditazione di Daniel Lumera e poi le favole di Anna Lavatelli, le coreografie di Beatrice Carbone e gli esercizi di Viviana Ghizzardi per rimanere in forma. E poi c'è sempre il nostro amico. Buona giornata a voi, io vi aspetto domani alle 10.30 pronta con un'altra puntata, un'altra diretta, un altro incontro e confronto con i nostri esperti. Buona giornata.